is low, low, low, low. Eccoci qua, sistemate le ultime cose. Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Inizia prove tecniche di trasmissione anche per questa sera, 19 settembre del 2018. Your 06 49 17 50 al contatto telefonico. Sito internet www.ondarossa.info anche per permettere l'utilizzo del nostro streaming. Per le comunicazioni mediante posta elettronica ondarossa@ondarossa.info e sul sito, oltre che sulla pagina Facebook Prove Tecniche di Trasmissione /Disorder, domani andrà in onda la playlist e il podcast conseguente. Andiamo a salutare Alessandra qui da Roma, Maya dalla Sardegna, da Roma dal medico della peste, Antonio Zovet da Firenze, Nicola Locci dalla Sardegna anche lui, Raffaele Pezzella in quel di Napoli. Trasmissione che andrà avanti sino alle 22.30 circa. E andiamo ad iniziare subito anche con l'ultimo ennesimo passaggio di Zoo 93, Zoo 93. Con Massimo Pupillo, Luca Mai e David Tibbet, naturalmente, con questo esordio dal nome Mirror Emperor. Tracce di neofolk, ma anche elucubrazioni industriali e oscuri sentieri intrapresi da questi grandissimi musicisti. Questa sera ci ascolteremo To Meet the Mirror Emperor. The Mirror Emperor is Absent. Thank you. E Awake Mirror Emperor. Praticamente tutti i titoli, come avrete intuito, gira tutto sul concetto di Mirror Emperor. Veils on the path. the nest. Ancora Zoo 93 da questo Mirror Emperor, e questa è la traccia che lo va a chiudere, Awake Mirror Emperor. Thank you. uno dei lavori migliori di questo 2018, a mio modestissimo giudizio, questo Mirror Emperor, che vede uniti gli sforzi degli Zoo insieme a David Tibbet di Current 93, e quindi Luca Mai, Massimo Pupillo, Stefano Piglia. Un Tibbet particolarmente ispirato sia dal punto di vista vocale, sia dal punto di vista meramente compositivo. Un bel packaging ad opera di Giulio De Mauro, che salutiamo. Intanto salutiamo anche Antonella dalla Sicilia e Anna qui da Roma, affezionatissime ascoltatrici, e di nuovo Alessandra qui da Roma sempre. Contiene un numero dunque questo progetto Zoo 93, un altro numero 3.3, anticipato dalla lettera C, C33, ossia una costola dei Test Department nella persona di Paul Germondsey, un album che però rispetto al progetto madre si dipana su atmosfere più martial e anche dark ambient. Ballad Reading Gaul, cacofonetta, ispirato da uno scritto di Oscar Wilde. Un album che esce per la Cold Spring, ormai una realtà tra le maggiori per quanto riguarda la musica, diciamo, indipendente. Questa sera ci ascoltiamo Movement 3, Gallows 3, e il brano che va a chiudere questo disco, un brano di quelli aggiunti nella nuova versione del 2018, ossia Panoptics in Vermin Mix. Open. Beware as men, we threw a fan of filthy darkness grope. We did not dare. is strong, it has a deadly stride. With iron heel it slays the strong, the monstrous parricide. We waited for the stroke of eight. Each tongue will thick with thirst for the stroke of eight. To wait for the sign to come. So like things of stone in a valley lone, quiet we sat and dumb. But each man's heart beat thick and quick like a madman on a drum. With sudden shock the prison clock smote in the shivering air, and from all the jail rose up a wail of impotent despair. Like the sound that frightened Marsh's hair from some lever in his lair. One sees most fearful things in the crystal of a dream. We saw the greasy hempen rope hooked to the blackened beam, and heard the prayer the hangman's snare strangled into a scream. And all the woe that moved him so that he gave that bitter cry, and the wild regrets and the bloody sweats none knew so well as I. Or he who lives more lives than one, more deaths than one must die. Scarlet Coat. C-33 and con I, Paul Germosi di Test Department e Rod Corrigan. We're on his hands. Un progetto che nacque nella lunga pausa appunto artistica dei stessi Test Department. Love and Mark. Test Department che tornarono quantomeno in attività live Monks qualche annetto dopo e ci hanno un po' illuso a tutti noi. Già che speravamo anche una uscita prossima di questo storico gruppo industrial, invece per adesso il nulla, soltanto dei live neanche troppo frequenti ma validissimi. Ballatold Reading Gaul, dunque decacofonietta per C-33. Cloud that went with sails of silver by. I walked with other souls in Salutiamo Fulvio Biondo di Sorologe, altro pezzo di storia della musica italiana. E appunto in Italia arriviamo e ci andiamo un po' a sollazzare con Post Contemporary Corporation. Abbiamo qui eroismo e pagliaccismo, rarità e inediti che vanno dal 1997 al 2008, una ottima operazione perpetrata da Musica di un Certo Livello, un'etichetta anch'essa storica. Un album del 2008, poi successivamente Zecchini. And why he looked upon the garish day with such a wistful eye. Ci ha donato anche dei singoli, per esempio Bob Marley era una brutta persona e Hey Matt. Per quanto riguarda invece le produzioni sulla lunga distanza, stiamo aspettando una probabilmente prossima. Noi ci contentiamo, tra virgolette, di questa e ci ascoltiamo Musica per il funerale di Berlusconi, una particolarissima performance di Zecchini insieme ad Antonio Oti, credo proprio il proprietario stesso della Musica di un Certo Livello. E poi ci sarà Inno delle Sante Vergini di Sumatra. Some love too little. Per il funerale di Berlusconi. Musica per il funerale di Berlusconi. Musica per il funerale di Berlusconi. Musica per il funerale di Berlusconi. Musica per il funerale di Berlusconi. Musica per il funerale di Berlusconi. Musica per il funerale di Berlusconi. Musica per il funerale di Berlusconi. Thank you. Benissimo, ora dunque Post Contemporary Corporation, eroismo e pagliaccismo. Interessanti le annotazioni di Fulvio e di Antonio sui rimandi, per esempio, che dava Zecchini verso Zev e Nars with Wound. Chissà che ne penserebbe Valerio se fosse in ascolto. Lui vive nelle Filippine, quindi in questo momento magari è impegnato in altre faccende, mentre qui Antonio ci consiglia una intervista allo stesso Zecchini, La palestra del cantautore, presumo molto interessante. Nel frattempo, alle 21:46, già è partito sotto la mia voce Michael Bonaventure, una delle cose più interessanti partorite dalla Nespresso Sounds di Raffaele Pezzella, da questo Works 2008-2017, già è partita Darent numero 3, una traccia che ci ascolteremo divisa in due parti, data l'estrema lunghezza, e questa sera cominciamo con ascoltarci la prima parte di questa Darent number 3. Benissimo, ci siamo ascoltati la prima parte di questo Darrant Number 3 per il grande Michael Bonaventure, artista scozzese, che in questa occasione ha ritirato fuori le primordiali partiture d'organo, suo principale e iniziale soprattutto strumento. Poi il nostro Michael Bonaventure ha ampliato le sue vedute e studi, e la musica contemporanea è stato ed è tuttora un punto di riferimento calzante per lui. 21:54, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Ringraziamo Raffaele delle puntualissime precisazioni e notizie che ci dà, cosa che mi auguro faccia anche col prossimo musicista. Qui andiamo a visitare il continente latinoamericano dal punto di vista dell'elettroacustica, e quindi una serie di musicisti ultrasotterranei, tra cui questo Patapsession Model di lui. Ci ascoltiamo Obsessive Dance.